chiamata via di armonizzazione, perché l'intento è quello di lavorare con la parte inconscia. Cercherò di darvi qualche indicazione, perché non è un percorso di psicologia questo, e nemmeno voglio caricarvi di troppe nozioni, anche se questa sera sarà parecchio teorica, perché devo creare il campo. L'idea è proprio quella di cominciare a lavorare, ora che abbiamo un po' di base di pratica meditativa, e insieme abbiamo fatto anche le pratiche di gentilezza amorevole, l'idea è proprio di cominciare a indagare su quelle parti di noi che sono quelle un po' più fragili, un po' più paurose, laddove sorgono quelle che vengono chiamate le emozioni negative o distruttive. Cercherò di guidarvi su, aiutandomi un po' con delle nozioni di psicologia occidentale. Chiaramente sapete che io pesco molto dall'Oriente, ma qui circoscriviamo molto anche la psicologia occidentale, magari toccando la base personale, adesso vediamo, ma soprattutto chi ha teorizzato queste cose un po' per primo qui in Occidente, naturalmente, che è stato Jung, e di sequenza, insomma, i suoi allievi, Ferrucci, Assagioli e così via, e cercheremo di creare proprio questo campo. Vi darò un po' di nozioni su cui poi dovreste provare a riflettere e poi a lavorare. Si tratta di un processo, quindi è un processo in 4 incontri. Ad ogni incontro vi darò un pezzettino in più per creare questo processo. Un processo che voi potrete ripartire da zero in qualsiasi momento della vostra vita, e quindi se anche avete da prendere appunti meglio, o se no ci sono chi registra, le anime belle che si prestano a registrare e poi divulgheranno, insomma, la registrazione. Anche perché molte cose magari per qualcuno di voi saranno nuove, quindi è facile che vengano persi dei pezzi per strada. Come sempre però cominciamo con un po' di rilassamento, quindi ci stendiamo in Shavasana. Cercando, come voi ben sapete, di trovare una posizione sufficientemente comoda. Come sapete, questo rilassamento iniziale ci aiuta soprattutto a prendere contatto con il nostro corpo. Il corpo è un po' la base essenziale, importante, da cui partire per le nostre pratiche. Quando ci mettiamo in questa posizione, anche a casa, portiamo l'attenzione a due punti del corpo che sono quelli un po' più delicati. Il collo, e se avvertiamo della tensione possiamo mettere sotto un cuscino, una maglia, qualcosa. Oppure la parte bassa della schiena, i lombari. Se avvertiamo tensione possiamo mettere un cuscino sotto le gambe, le ginocchia, oppure addirittura appoggiare i talloni piegando le ginocchia. Le braccia sono lungo i fianchi, le palme possibilmente rivolte verso l'alto. Lasciamo che l'attenzione piano piano cali al respiro. È un'attenzione morbida, non vi è sforzo. Semplicemente osserviamo l'aria entrare e l'aria uscire. Il tutto in modo molto naturale. Non vi è alcuno sforzo in questa osservazione. Non cerchiamo di modificare il ritmo del respiro. Non cerchiamo di indurre il rilassamento. Osserviamo, semplicemente osserviamo, e piano piano il nostro corpo si rilassa. Vi nominerò ora alcune parti del corpo e con la semplice osservazione, con la semplice attenzione della mente, cercheremo di rilassare queste parti del corpo. Iniziamo dai piedi, le dita dei piedi, le piante, il dorso. È sufficiente portare la mente in quel punto e lasciare andare ogni tensione. Risaliamo ai polpacci e poi alle ginocchia. Portiamo l'attenzione alle cosce e poi ai fianchi, cercando proprio di lasciare andare, di ammorbidire, di mollare. Passiamo con l'attenzione alle mani, le dita delle mani, le palme, il dorso. L'attenzione va agli avambracci e poi alle braccia. Ci accorgeremo piano piano che ogni parte del corpo, rilassandosi, diventa un po' più pesante e poi tende a dissolversi, a rarefarsi. L'attenzione poi va alla parte frontale, stiamo sul ventre e poi sul torace. Cerchiamo di ammorbidire il ventre e di rilassare il torace. Le pratiche di rilassamento sono un prendersi cura di noi stessi. Ci prendiamo cura del nostro corpo, abbandonando le tensioni. Portiamo l'attenzione alla schiena. La schiena spesso è un po' tesa, un po' contratta. Abbandoniamola sul tappetino. Lasciamola andare. Lasciamo proprio che si apra sul tappetino. Risaliamo alle spalle, anche le spalle a volte sono un po' contratte. Le lasciamo andare. Osserviamo ora il collo, la nuca, la sommità del capo. Distendiamo le rughe della fronte. Le palpebre sono pesanti. Lasciamo ammorbidire le guance. La bocca è semiaperta per lasciare andare un po' la mandibola. Piano piano il volto, il capo, l'intero corpo stanno abbandonando le tensioni. Ma noi non ci stiamo addormentando, siamo molto presenti, molto attenti. Lasciamo semplicemente che il nostro corpo abbandoni ogni tensione, mentre noi lo osserviamo, mentre si rilassa. Ed infine torniamo ad osservare solo il respiro. L'aria entra dalle narici, percorre il corpo, solleva lievemente il ventre. Poi il ventre si abbassa e l'aria esce dalle narici. E tutto in modo molto naturale, senza sforzo. Ed ora portiamo l'attenzione alle nostre estremità. Portiamo l'attenzione alle dita dei piedi, alle dita delle mani. Ed iniziamo a fare dei piccoli movimenti per riprendere contatto con il nostro corpo. Muoviamo piano piano le estremità. Ed infine torniamo a sentire le gambe, le braccia, a riabitare il nostro corpo. Fino a quando sentiamo che per noi è giunto il momento di riaprire gli occhi. Nel momento in cui riapriamo gli occhi, rimaniamo per qualche istante ancora fermi, per riprendere contatto con l'ambiente circostante. Dopodiché, quando sentiamo che è venuto il momento, ci rimettiamo seduti sul tappetino, ricordando di ruotare su un fianco per non danneggiare la schiena. Cerchiamo di non perdere compattezza e presenza e ci mettiamo seduti nella nostra posizione di meditazione. Quindi la schiena è sufficientemente diritta, mani in grembo sulle ginocchia, come vi trovate meglio. Mento lievemente abbassato per scaricare il collo, occhi morbidamente chiusi. Facciamo qualche respiro più profondo. E poi cerchiamo di trovare un nostro centro, di trovare una nostra posizione interiore di armonia. aiutandoci con il ritmo del respiro, cerchiamo di trovare un po' di pace e un po' di centratura. L'espirazione ci aiuta a rilassare. L'inspirazione porta luce, energia, vita. Quando inspiro mi nutro. Quando espiro lascio andare. Se dovessi avvertire un po' di distrazione, se dovessi sentire la mente che vaga, non è un problema, va bene così. Semplicemente la riprendiamo e con grande gentilezza la riportiamo al nostro respiro e al nostro corpo, con costanza e gentilezza. Ed ora vi chiedo di formulare un pensiero di gratitudine. Stiamo iniziando questo percorso assieme e quindi, se potete, se lo desiderate, vi chiedo di formulare un vostro pensiero di gratitudine. Di essere grati per esservi concessi di iniziare questo cammino, grati dei compagni che con voi e con noi cammineremo assieme. Un pensiero di gratitudine. siamo soliti fare, riprendiamo contatto con il corpo, facciamo qualche piccolo movimento e da quando sentiamo di poter riaprire gli occhi, senza fretta. Accendo una luce. Allora, come va? Bene? Siete concentrati? Ho tutta la vostra attenzione? Anche perché adesso la questione è un po' teorica, è abbastanza ampia, quindi insomma dobbiamo fare un'altra pratica, quindi devo andare un po' veloce, però è giusto che facciamo un quadro bello completo inizialmente per quanto riguarda il lavoro che mi piacerebbe farvi fare in questo percorso. Perché ho scomodato la psicologia occidentale, non essendo io un vero e proprio esperto, ma insomma l'ho studiata e quindi qualcosa mi pare di avermi capito. Perché la psicologia orientale, sapete che il buddismo è una psicologia fondamentalmente che ha migliaia di anni, spiega questa parte, diciamo così, di lavoro in maniera, a mio avviso, abbastanza complessa. Cioè, nelle scuole dove insegno buddismo o se non altro alcune cose del buddismo, chiaro che si va in fondo utilizzando quella via, ma essendo in un corso in cui a noi interessa soprattutto il lavoro pratico, pragmatico attraverso le pratiche, ho optato per stare qui da noi a livello tradizionale perché mi è sembrata una scelta più oculata. La parte che riguarda l'inconscio, la parte in ombra, che viene chiamata ombra da Jung, è trattata dalla tradizione buddista in maniera molto profonda, molto dettagliata, fin troppo, e quindi ci vorrebbe un percorso veramente molto ampio. E di pari passo anche la tradizione orientale, quella ortodossa, la tratta in maniera molto profonda. Perché dico ortodossa? Mi pare di averlo già detto, insomma, facciamo una piccola ripetizione: il buddismo viene visto nell'area della tradizione orientale, intendo orientale bacino indiano, come una via eterodossa, non conforme, perché il Buddha era un ribelle, come il Cristo, e non riconosceva i Veda come autorità. Quindi è stato considerato il buddismo, come anche altri, mi pare anche il jainismo, come correnti eterodosse, anche se il buddismo ha attinto molto dall'area induista, mentre quelle ortodosse sono le sei scuole, le sei dashana, c'è anche lo yoga in mezzo, c'è il samkhya, insomma ce ne sono tante. Di queste sei scuole, diciamo che quelle eterodosse, fuori diciamo così dall'alveo della tradizione, il buddismo è il più importante. Tutti questi trattano e parlano della parte così, diciamo così, profonda, inconscia, chiamandole afflizioni mentali. Quindi vedete, è già diverso e si comincia a perdere un pochino la trebisonda. Quindi, diciamo, lasciamo perdere tutta l'area orientale perché le afflizioni mentali si chiamano klesha, perché i klesha sono cinque, perché quei cinque klesha danno luogo a 84.000 emozioni. E due cose, cioè, ci perdiamo, ok? Non è il caso di entrare in tutta quella storia lì. Fra l'altro dovrei introdurre il karma, che chi di voi vorrà lo faremo poi. Perché il karma? Perché quando parlo delle afflizioni mentali devo parlare delle samskare, delle vasana, che sono le impronte karmiche, delle traumatiche. E allora mi viene più comodo, senza introdurre quindi tutte queste disquisizioni, mi viene più comodo utilizzare la spiegazione che ci ha dato la psicologia occidentale. quindi posso un po' rendere più potabile con qualche esempio, qualche disegno e anche qualche lettura. Okay? Che cosa ci dice la psicologia occidentale per quanto riguarda la nostra parte, diciamo così, in ombra, la parte che noi consideriamo un po' più fragile, un po' più debole, un po' impaurita, ma non solo questo. Allora vi faccio un disegno con il quale io mi trovo sempre molto bene. Un disegno da schifo, però tanto per capirsi, no? Allora fate conto che questo sia un iceberg. L'iceberg è immerso in un liquido che si chiama acqua, giusto? Allora, l'iceberg è sempre conformato più o meno in questo modo, cioè ha una parte che è un terzo o meno di un terzo che è fuori dal livello dell'acqua e una parte che è immersa nell'acqua per i due terzi, ok? È una metafora nel senso che noi ciò che è fuori dell'acqua lo consideriamo parte conscia, cioè parte che noi, di cui noi siamo consapevoli. Perché? Perché è come se fosse quella parte di noi che vede, che sente, che coglie, che sulla quale sa in qualche maniera discriminare, sa discernere, no? È quella che vede. Questa parte conscia, che noi invece consideriamo essere la stragrande maggioranza della nostra vita, è invece una piccola parte, perché quasi tutta la nostra realtà psichica, se primo, quasi tutta la nostra realtà, l'informatico che in me non muore mai, quasi tutta la nostra parte psichica è inconscia. Cioè cosa vuol dire? Che è sommersa nel liquido, il liquido, l'acqua, è sempre metafora delle emozioni. In Oriente si direbbe che è la parte astrale, no? Quindi la parte immersa nell'emotività. Nei testi indiani lo chiameremo Kama Manas. Che cos'è il Kama Manas? Kama sono i desideri. Kama Sutra. Avete mai sentito parlare? Sutra significa discorso. Sono i discorsi attorno al piacere o al desiderio. Poi qui in Occidente sono stati profanati, perché sono cose sacre queste. Mentre manas, la parte mentale, ma è la parte mentale più concreta, quella di cui vi ho parlato molte volte, che è quella parte sulla quale noi, che usiamo tutti i giorni, no? La parte che ho chiamato reattiva. Ma perché è reattiva? Perché è mescolata a kamas, a kama. Cioè queste due parti sono così interrelate che non si sa se nasce prima il pensiero, la reazione all'emozione, la reazione allo stimolo esterno. Sono quelle cose così aggrovigliate per cui nei testi vengono chiamate proprio kama manas. Ecco, quest'area qui, no, è come se fosse immersa in questa parte emotiva. Allora, la parte inconscia è molto più grande per tanti motivi, adesso vi darò qualche indicazione di più. Ma qual è l'effetto sulla nostra vita? L'effetto sulla nostra vita è che noi siamo convinti di dirigere la nostra esistenza perché nella parte conscia noi vediamo e diciamo facciamo le nostre scelte, facciamo le nostre valutazioni, facciamo le nostre discriminazioni, ragioniamo, pensiamo, valutiamo, tutte queste cose fanno parte della parte conscia e siamo convinti di essere noi a dirigere la nostra vita. Ma se questa metafora vi è abbastanza chiara, sapete che questa parte non dirige niente. Perché in un iceberg tutto viene diretto in maniera sotterranea dalle correnti che sospingono l'iceberg. Mi seguite? Questa è la parte quindi inconscia, buia, chiamiamola così, non consapevole, ma è quella che viene sospinta dal mare delle emozioni e quindi la vita ci porta laddove vuole lei. Qui c'è la cloche, e la cloche non ce l'abbiamo in mano noi. Ma la parte illusoria è che noi, essendo consci e vedendo, diciamo, io che ho deciso di andare lì. Ok? Chiara la metafora? Sì. Bene. Allora, il primo che in qualche modo, i primi sono stati gli orientali, e per qualche verso, se andiamo alla ricerca anche di alcune indicazioni nelle filosofie antecedenti, fin dalla Grecia, si parlava un po' di queste, di questa modalità eterodiretta, portate pazienza il termine un po' strano. Ma il primo è stato proprio Freud, quando ha teorizzato la coazione a ripetere, no? E questa coazione a ripetere cosa dice? È che ci si trova in certe esperienze della vita a doverle rifare quasi da zero, queste esperienze, chiaramente con altre persone, in altre situazioni, in altre condizioni, ma la stessa esperienza. Perché? Ma perché se sta in piedi tutta questa cosa qua, semplicemente quell'esperienza non risolta deve essere rivissuta, perché tutta questa parte, chiamiamola oscura, magmatica, non essendo sotto la luce della consapevolezza, ci porta a vivere sempre le stesse esperienze, a ripassare attraverso le stesse sofferenze. Mi seguite su questo piano? Quindi, se nella vostra vita, cominciando già magari a ragionare, no, vi sovvengono alcune esperienze molto simili, spesso accade con le esperienze affettive, magari anche quelle professionali, no? Si scappa da un posto di lavoro perché le condizioni sono diventate impossibili, si arriva in un altro posto dove cambia lo scenario, cambiano le persone, ma dopo un po' le dinamiche che si rivelano sono le stesse. Questo si può vedere in maniera molto facile, spesso capita, a me è capitato molto di confrontarmi con tante persone che mi hanno dato proprio questo feedback del posto di lavoro. Capita spesso anche nelle questioni affettive, quindi diciamo così, con il partner o anche con amici, no? In cui certe dinamiche a un certo punto non sono più sostenibili, si rompe la relazione e si cerca un altro partner, un'altra amicizia, e dopo un po' ci si accorge che questo tipo di dinamiche si ripresentano. Qual è la cosa che capita sempre? Che essendo parte inconscia, noi tendiamo ad incolpare la vita, gli altri, il governo, il papa, il nostro partner, i nostri amici. Perché? Perché non vedendo com'è costituita questa parte ed essendo sicuri di essere noi perfettamente consapevoli, in grado di discernere, diamo la colpa alla sfiga. Okay? O diamo la colpa alle persone che sono brutte e cattive. Ora vi faccio un paio di letture per farvi capire che non funziona proprio così, ma che anzi, essendo questa parte un po', io l'ho chiamata magmatica, nel senso che non riusciamo a vederla fin tanto che non facciamo un lavoro particolare su noi stessi, semplicemente questa ci porta sempre negli stessi luoghi. Luoghi, non dico fisici, luoghi emotivo-psichici, perché è in quei luoghi che queste esperienze dovrebbero essere sciolte, dovrebbero essere comprese. Un altro luogo, allora, ecco, una cosa che mi sento di dirvi, di darvi un altro elemento, è questa. In questa area vige la mente razionale. Razionale. E quindi qui si usano si usano come metodi di indagine della realtà i metodi soliti che conosciamo, cioè quello deduttivo e induttivo. Qui no. In quest'area funziona, non funziona nulla della mente razionale. Non la possiamo indagare con gli strumenti con cui noi indaghiamo la realtà. E allora mi chiederete, e come se no? Qui funziona un'altra modalità, che è la modalità analogica. E la modalità analogica che differenza, e sono le cose più difficili queste, non voglio entrare troppo, non andrò tanto in là come difficoltà, però questo è importante, perché cosa vuol dire che sarà, che nella nostra vita cosciente usiamo la modalità deduttiva e induttiva? Semplicemente che noi analizziamo, osserviamo la realtà e prendiamo delle decisioni a seconda della realtà che osserviamo, cioè facciamo dei ragionamenti. Ed è giusto, cioè quando andiamo al supermercato prendiamo in mano una cosa, mi piace, non mi piace, costa troppo, non costa troppo, mi fa bene, non mi fa bene, ok? E questo vale un po' per tutte le scelte. Mi propongono di fare un'attività, dico guarda, pregi, difetti, facciamo che non la faccio, facciamo che mi butto in questa cosa. È tutto in qualche maniera abbastanza, scusate, ragionato. Qui no, ma qui vige un'altra modalità, che è quella analogica. E qual è la modalità analogica? Quella dei sogni, ad esempio. Ok? Cioè sono i sogni che ci parlano della nostra parte inconscia, ad esempio. Oppure cosa? I simboli. I simboli. Allora tutto il linguaggio simbolico non è per nulla deduttivo o induttivo, perché il linguaggio simbolico, un simbolo, siamo in 15, 17 qua dentro, può dire delle cose diverse ad ognuno di noi, ma sono tutte vere, sono tutte reali. Il rapporto che abbiamo con un simbolo che sorge ad esempio in un sogno non è sbagliato, perché io vedo una cosa che poi rapporto alla mia vita inconscia e un altro vede un'altra. Il simbolo è polimorfo, cioè mi sorge questa figura, un albero magari, che ne so, un albero con delle radici profonde, però con i rami secchi, può succedere di tutto in un sogno. E questo mi dà delle... mi fornisce dei dati intuitivi, analogici, non più deduttivo induttivi, ma intuitivi, che mi svelano qualcosa della mia parte inconscia. Questo è tutto molto teorico, però a me interessano i metodi, ok? Quali altre aree posso indagare oltre ai sogni e i simboli? I simboli dove compaiono? Compaiono nelle fiabe, ad esempio. Le fiabe sono per adulti, non sono per bambini, sono storie per adulti. Compaiono nei libri sacri, nei Vangeli, nei Veda, negli Upanishad, nel Vedanta. Tutti quei testi lì sono testi che sono scritti in maniera simbolica. Le parabole del Vangelo sono una fonte inesauribile di lavoro su se stessi, perché sono tutti simbolici. Io nella mia storia personale ho privilegiato la mitologia, perché a me la mitologia sarebbe piaciuta tanto. Quindi i miti greci, i miti norreni, ma anche i miti orientali, sono più difficili perché hanno delle figure di riferimento a noi distanti, ma sono ricchissimi di simboli che possono parlarvi e vi parlano della vostra parte inconscia. Scusa, una domanda. Sì. Il simbolo nel sogno. Sì. Ma che cosa rappresenta? Tu dicevi un albero, no? Cioè un'anfora, una spada, un animale, tantissime cose potrebbero essere. Tutte le immagini che io vedo nel sogno sono simboli. Cioè, sono tutti simboli. Allora, non è vero che sono tutti simboli, nel senso che tante cose sono anche magari solamente contorno, ma a volte stagliano proprio dei momenti nel sogno in cui si possono veramente cogliere delle cose importanti che riguardano. Ecco, noi non possiamo affrontare quest'area perché non riguarda questo percorso, tutto il mondo onirico, però vi posso dare un consiglio, cioè al mattino, se riuscite a stare lì qualche minuto in più e non scattare subito come se fosse attaccata la 220, no? Se riuscite a rimanere un po' lì e agganciare l'ultimo sogno, perché è sempre lì, essendo la fase REM l'ultima prima di uscire, no? Fase REM è, sapete come funziona il sonno, no? Cioè, stiamo sempre addormentati, scendiamo nel sonno, facciamo così fino a quando usciamo, quando siamo qui ci svegliamo. In questo momento qua in cui apriamo gli occhi è il momento in cui, se riusciamo ad agganciare l'ultimo sogno, possiamo anche ricordarli tutti, scriverli. Tenetevi un diario onirico nel quale scrivere i vostri sogni con tutti i simboli che possono sorgere. Sì, si può lavorare, vabbè, però non è questa cosa qui. Quello che però vorrei farvi capire è che per queste due aree ragionano in maniera completamente diversa. Qui l'ambito induttivo, deduttivo, razionale non funziona per niente, non ha alcuna attinenza. Se cominciamo a ragionare su queste cose qua non ne veniamo fuori, però i simboli che mi tornano possono essere letti in una chiave proprio di apprendimento interiore, di contatto con quelle parti di sé profonde che abbiamo. Adesso vi racconto come si formano nella nostra storia, che possono svelare proprio delle situazioni interiori che potrebbero proprio farci comprendere, no? Allora, il bello è che i sogni, va bene, ma anche il leggere dei testi sacri o il leggere dei miti in un certo modo, cercando di farsi compenetrare, ci dà proprio delle immagini interessantissime per quella che è la nostra esistenza. Magari proprio passando attraverso alcuni momenti della nostra esistenza. Vi faccio un esempio. Le 12 fatiche di Ercole, tanto per dirne una che è forse la più famosa, non è altro che un viaggio iniziatico. Ed è un viaggio iniziatico, tappa dopo tappa, che fa una persona per entrare in profondo contatto con se stessa. E ogni simbolo che è all'interno di ogni fatica sono simboli meravigliosi che ci possono mettere proprio in contatto con quelle parti di noi che sono inconsce. Perché? Perché creano un ponte, le immagini creano un ponte. Mentre l'ambito induttivo, deduttivo e induttivo è fatto di parole, l'ambito dei simboli è fatto di immagini. Le immagini sono la principale costruzione e creazione della mente. La mente, sapete bene, lavora per immagini, non lavora per parole. Le immagini vengono poi trasformate in parole. Quindi noi abbiamo delle immagini simboliche che ci mettono in contatto diretto, perché simbolo ha proprio questa valenza. Cancello un pezzettino. Magari lo sapete già, magari ve l'ho già detto, ma simbolo deriva dal greco simballo, vuol dire mettere assieme, unire, è un ponte tra una realtà che è la realtà del mio sogno, della mia vita, della mia esistenza, non il mio sogno, della mia vita, della mia esistenza, e invece una realtà simbolica che è quella del sacro. E questo ponte che si crea attraverso il simballo non fa altro che mettermi in contatto col significato profondo. Quindi nel momento in cui riesco a riunire queste due, la mia vita di tutti i giorni, un'esperienza, il simbolo che è un'immagine che mi mette in contatto con qualcosa di profondo di me stesso, in quel momento sorge l'intuizione. Che cos'è l'intuizione? È una soluzione, è una nuova modalità, è una comprensione di una parte di sé che è nascosta. Si apre questa parte qui, si apre, come fosse un viaggio all'interno di una selva oscura, tanto per citare un'altra opera perfettamente simbolica di Cammino Interiore, la Divina Commedia. Ecco, il contrario del simbolo qual è? Diavolo. Cosa vi fa venire in mente il diavolo? Il diavolo. Il diavolo è il separatore, colui che separa da. Dia o di è proprio la particella che dà luogo alla divisione, alla dicotomia. Divide, diavolo. Simbolo proprio con l'unire. Allora, è chiaro fino a qui? Sì. Mi pare potabile, no? Allora, vi leggo un paio di cosette che vi chiariscono tutto questo pippone iniziale. Allora, nasciamo integri. E questo è molto interessante. Cosa vuol dire nasciamo integri? Che siamo bambini completamente inconsapevoli, ma siamo uno. Difatti, se voi guardate i bambini, non hanno mediazioni, no? Se avete mai osservato dei bambini, non c'è mediazione. C'è totale aderenza alla realtà, inconsapevole, ma totale aderenza alla realtà. Non c'è una separazione tra ciò che sentono, pensano, ragionano e ciò che poi faranno. Totale adesione. Nasciamo integri. Ma in qualche modo l'ambiente in cui cresciamo richiede che rifiutiamo alcune parti della nostra natura. Richiede. Jung ha usato il termine ombra, riferendosi alle parti represse della nostra personalità. Represse. È importante che adesso cominciamo a capire come si crea questa parte di noi, questa frattura, questa divisione. L'ombra junghiana può essere indicata con diversi nomi: il sé rinnegato, il sé inferiore, l'alter ego. Ci sono delle bellissime opere letterarie che parlano di questo sdoppiamento, no? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ad esempio, no? È perfettamente simbolica in quel senso. La nozione di base è molto semplice. L'ombra rappresenta colui che preferiresti non essere. Preferiresti non essere. Quando etichettiamo degli aspetti della nostra natura in buoni e cattivi, o cattivi, abbiamo iniziato il processo di creazione dell'ombra che ci divide internamente. L'ombra rappresenta quella facciata che non vogliamo mostrare al mondo. Contiene quelle caratteristiche che crediamo non siano accettabili dalla nostra famiglia, dalla società, dai nostri amici, ma soprattutto da noi stessi. Cioè quella parte che non vogliamo far vedere. Per persone diverse, in famiglie e culture diverse, ciò che è accettato e ciò che viene relegato nell'ombra può variare. Ad esempio, ad alcuni è permesso di esprimere la rabbia o l'aggressività, ad altri no. Altri permettono la sessualità, la vulnerabilità o l'espressione emozionale. Per alcuni ciò è inaccettabile. Altri consentono l'ambizione finanziaria, l'espressione artistica, lo sviluppo intellettuale, mentre altri no. Tali caratteristiche rifiutate e considerate inaccettabili, io aggiungerei socialmente inaccettabili, perché vi accorgete che, se cominciate un po' a pensare, no? Vi accorgete che tutto è in qualche modo regolato dal tipo di cultura in cui viviamo. C'è un tipo di morale che vige all'interno delle società, nel bene e nel male, non stiamo a demonizzare niente, ma che genera questa spaccatura, la intuite adesso, sì, la intuite, ma questa spaccatura cosa fa? I genitori, gli insegnanti, gli educatori, gli amici, dove viviamo, ci dicono questo non va bene, questo va bene, questo non lo devi fare, questo lo puoi fare. Giusto? Sì. Ci sono più fratelli tra questi. La famiglia, certo. Tali caratteristiche rifiutate, eccetera, eccetera. Sì, ah no, scusate. Altri consentono l'ambizione finanziaria. Tali caratteristiche rifiutate e considerate accettabili non scompaiono. È questa la cosa importantissima che dobbiamo mettere via. Cioè, nel momento in cui qualcuno mi dice non si può, da piccolino, ma quella lavora non la devi fare mai, non si può fare. In quel momento noi ci sentiamo che questo insegnamento ci induce a mettere via quella parte, ma non è che scompare nel nulla, è materiale psichico, c'è, esiste. Si raccolgono quindi tutti questi rifiuti, vedete? Si raccolgono in un angolo buio della nostra personalità. Il messaggio che riceviamo da questo luogo è semplice. Questo luogo, mano a mano che andiamo avanti nella vita, si ingrandisce, perché lì releghiamo tutto ciò che non è accettato. Ma guardate, aggiungo io, non solo ciò che non è accettato, ma anche ciò che non abbiamo potuto esprimere. Vi faccio un esempio. Quando io ho cominciato a capire sta roba qua, in me si sono riattivate una serie di questioni e ho cominciato a scrivere. Ma la scrittura, diventare uno scrittore in Veneto, è un po' come fare il pittore, no? Pittore. In Veneto al massimo puoi dipingere le case, ok? Sbiancare, sì. Quello che porta a casa la pagnotta. Ma lo scrittore di per sé, io ho avuto una famiglia meravigliosa, non mi ha mai tarpato le ali, ma mi sono autotarpato. Ma quando ho cominciato a lavorare ho detto, ma allora i talenti, i nostri talenti, le nostre aspirazioni, che abbiamo per forza dovuto relegare da qualche parte, non sono sparite, non sono finite nel nulla, ma sono finite in una parte di me, l'inconscio, l'ombra, eccetera, che alla fine è un'energia che mi guida. Se finisce lì, è quella che mi guida. E allora, riconoscendo questi talenti, queste propensioni, queste aspirazioni, è bene riconoscerle e lasciarle esprimere, perché altrimenti diventano materiale psichico che in qualche maniera magma, borbotta e ci guida. Il messaggio che riceviamo da questo luogo è semplice: c'è qualcosa che non va in me, devo fare del mio meglio per tenere nascosta questa parte indesiderata. La sua espressione non è accettata. La scelta di non permettere a parti di noi stessi di esistere ci costringe a spendere enormi quantità di energia psichica per mantenerle sotto la superficie. Ecco, questo è un altro passaggio fondamentale. A me piace molto l'idea del magma. Perché? Perché è sempre lì che cerca di esplodere. Ma noi dobbiamo presidiarlo e tenerlo in qualche maniera a bada. Tutta questa energia che serve per mettere, diciamo così, in sicurezza la parte inconscia, è energia che noi spendiamo per presidiare questo grande serbatoio. Ok? È abbastanza chiaro? Sì. Quindi tutti noi perdiamo di noi, sì? Per tenere questa, certo, allora c'è un esempio che a me piace tantissimo, che fa scusate, che fa Carlos Castaneda nei suoi testi. Castaneda non è uno psicologo, ma parla di queste cose in termini sciamanici. E lui dice, si arriva ad un punto della vita, lui arriva a queste conclusioni passando da altre parti, ma lo sciamanesimo, che è fondamentalmente una tradizione di cura, no? Dice che la malattia non è mai una malattia, la malattia fisica non è mai una malattia fisica, ma è un'espressione della malattia dell'anima che si riflette sul fisico. E quindi il guaritore, lo sciamano, fa un viaggio di guarigione per ricomporre un'anima spezzata, un'anima frammentata. Vedete che somiglia molto a questa cosa, no? E quindi quando Castaneda racconta di com'è l'uomo occidentale nei suoi testi, dice è come se noi nella vita partissimo completamente liberi, Jung dice integri, no? Cioè liberi, possiamo camminare, correre, la mente è libera, tranquilli, si va. A mano che andiamo avanti nella vita, le scelte, i traumi, le sofferenze, le negazioni, l'aver separato, l'aver annichilito le parti che noi magari avremmo voluto esprimere ma che non siamo riusciti mai, mettono dei ganci per terra, come se avessimo delle corde con un gancio e continuiamo a camminare, un altro gancio, e continuiamo a camminare, un altro gancio. Quando cominciate ad avere 7, 8, 10, 20, 50, 1000 corde agganciate per terra, la nostra vita diventa una fatica, diventa faticosa e basta. Perché sentiamo la sofferenza di portare avanti tutta questa cosa. Allora lì, in quell'ambito lì, si fanno altre pratiche per togliere sti ganci, ok? La ricapitolazione, ci sono un sacco di altre pratiche, metodi che io ho sperimentato, sono estremamente interessanti. Ma nel nostro caso faremo una cosa molto più semplice, ma quello che deve essere, vorrei che fosse è chiaro in questa prima serata, è qual è la condizione che viviamo, perché nessuno di noi è scevro da questo, nessuno di noi può dire ah no no, io non ho alcun tipo di bagaglio che mi eterodirige, non funziona così, siamo tutti abbastanza adulti e quindi tutti noi abbiamo vissuto questo percorso di scartamento di visione e far finta che e ci sacrifichiamo per vabbè, a me sarebbe piaciuto diventare un ballerino, non è vero, ma non ho potuto perché i miei mi hanno detto cosa vai a esprimerti artisticamente, capite? Tutti questi annichilimenti, avendo compreso ora, molti di voi lo sanno, ci sono anche delle persone molto più esperte di me qui, ma avendo voi compreso che non spariscono, non è materiale che vabbè, ho preso un'altra strada, via, ma rimane lì e in qualche maniera si fa sentire e per non farsi sentire, per non dare voce a queste parti di noi, le presidiamo energeticamente, capiamo che siamo anche sempre molto appesantiti, no? E devo dire che quando ho cominciato a studiare queste cose ho visto, ho intravisto questa pesantezza. Negare una parte di sé non comporta certo che questa scompaia, semplicemente viene relegata nell'inconscio, dove continua ad influenzare la persona con complessi e nevrosi. Secondo Jung la soluzione non è reprimere, ma conoscere e integrare questo materiale psichico. Importante, non reprimere, ma conoscere ed integrare. E qui, se voi vedete, c'è una diretta correlazione con quello che vi dico sempre, cioè non mai rifiutare le parti sofferenti che si palesano, ma accoglierle ed integrarle. Ricordate qualcosa dalle lezioni precedenti? Sì, sì. Perché è quello il meccanismo, ed è il meccanismo che ci viene richiesto anche in questo percorso. Se l'emozione negativa viene conosciuta, accettata e ricordata, allora viene integrata dalla coscienza e l'energia di cui è portatrice investita in modo positivo. Se invece pretendiamo di non aver mai avuto quel desiderio, se lo neghiamo o lo reprimiamo, purtroppo molto spesso l'educazione è fatta in questo modo, sì o no? ci insegnano a reprimere, dimenticare, ignorare, vero o no? Non è colpa, adesso non è che andiamo a casa il papà e la mamma li prendiamo a botte, non funziona così, è perché culturalmente abbiamo intrapreso un percorso di questo tipo, no? Non si piange, ma il bambino maschio poi piange. E queste cose qua adesso molto meno, insomma, i genitori moderni sono completamente diversi, ma quelli che cominciano ad avere 30, 40, 50 anni hanno altri problemi che quelli di adesso. Quelli che cominciano ad avere 30, 40, 50 anni avevano genitori che avevano questa impostazione, no? Se invece pretendiamo aver mai vissuto, reprimiamo l'energia, questa energia andrà a sviluppare un complesso. Un complesso, infatti, è un insieme di pensieri repressi ed emozioni che si accorpano attorno ad un tema di un certo archetipo. In questo testo l'uso dell'archetipo secondo me è un po' così, ma insomma, ecco, meglio dice archetipo oppure definito anche come immagine istintiva. Molto spesso quello della madre o del padre. I complessi interferiscono con le intenzioni della volontà e disturbano le decisioni coscienti. Questo è molto interessante. Disturbano le decisioni coscienti. Cosa significa? Significa che noi, molto spesso noi, quando prendiamo le nostre decisioni, pensiamo di decidere razionalmente, ma invece ci guida la pancia, come si dice, no? Ci guida quella roba là. Se voi guardate, nel bene o nel male, le decisioni importanti della vita non sono quasi mai prese a livello razionale, anzi, non dovrei dire mai prese a livello razionale. Sono sempre spinte da qualcos'altro. La pulsione. Sì, in qualche modo sì. Allora, agiscono con una loro vita autonoma e alla fine ci possiedono. Generalmente nascono da un trauma o da uno shock emotivo. Certamente una delle cause più comuni è un conflitto morale. Che apparentemente deriva dall'impossibilità di esprimere la nostra natura nella sua completezza. Cioè, questo conflitto morale ci dice devi comportarti così, e quindi una parte di te va repressa. Che non è, ecco, non vorrei che passasse per il male questa cosa. Perché uno, cioè, sarebbe il caos più totale, no? E la moralità è in fondo il modus, no? Il mos moris. La morale è il modo di vivere in una relazione sociale. Ma quello che fa la differenza è esserne consapevoli o non esserne consapevoli. Se noi siamo consapevoli che una parte di noi è stata relegata in una parte che abbiamo chiamato ombra o inconscio, allora sappiamo anche che questo serbatoio di energie può essere accessibile, esplorabile, contattabile, capite? È molto diverso. Non diventiamo più completamente etero diretti, ma cominciamo a capire che una parte di noi decide al posto nostro perché non l'abbiamo mai esplorato. Quindi, se il suo contenuto, il contenuto dell'ombra, non viene consapevolizzato, l'ombra comincia ad avere una vita propria, manifestandosi in momenti in cui le difese della coscienza sono abbassate e possono portare la persona a comportarsi in modo inaspettato. Finché non accettata con amore e comprensione, importante, con amore e comprensione, l'ombra può rovinarci la vita, rendendoci vittime di complessi, di eccessi o di dipendenze. È fondamentale, più la si nega, più si ingrandisce. Se cerchiamo di integrarla, invece, abbiamo un'espansione di coscienza. Cioè, l'integrare questa parte produce una coscienza che si apre. Mentre più neghiamo questa parte, come purtroppo l'educazione e anche un certo tipo di morale, e purtroppo in questo il Veneto è una religione pazzesca, quindi tutti dovremmo chiederci perché mi sono incarna qua, perché vuol dire che qui l'asticella si alza, no? Chi ha fatto esperienze di altre, anche solo di altre regioni, capisce che c'è una pasta diversa. Ecco, da questo punto di vista quindi abbiamo capito che più neghiamo, più allontaniamo, più ignoriamo e più si espande, più diventa potente questa parte qui. È come mettere il coperchio sopra l'acqua che bolle. Cosa succede? La potenza prima o poi fa saltare il coperchio, per quanto noi cerchiamo di tenerla giù. E fondamentale, più la si nega, più si ingrandisce. Se cerchiamo di integrarla, invece abbiamo l'espansione di coscienza. L'ombra, comunque, continua a manifestare i suoi contenuti nei sogni e nelle fantasie, proprio affinché la coscienza venga in contatto con questo materiale e possa dargli attenzione per integrarlo. Una gran parte del lavoro dell'inconscio, infatti, è farsi sentire per mezzo dei sogni e delle fantasie, perché il suo contenuto sia consapevolizzato e integrato. Pippone finito. Allora, che ne dite? Vi pare abbastanza congruo? Quello che vi chiedo come prima pratica che dovremmo fare per tutta la... C'è un altro pezzettino, ma chiaramente abbiamo un mese, il prossimo pezzettino lo faremo giovedì prossimo. La pratica che vi chiedo di fare durante tutta questa settimana è una pratica molto semplice. È una pratica anticipatoria del nostro provare ad esplorare le parti inconsce. Quindi sarà una pratica che faremo adesso assieme. Vi chiedo di ricordarla e di praticarla per tutta questa settimana. Sarà completamente guidata, non dovete inventarvi nulla. Vi guido completamente io, se viene anche registrata meglio, perché così poi ve la scambiate, se vi va bene la mia guida, se no non importa, cioè la fate per conto vostro, tutta guidata, e quindi è sufficiente seguire le mie parole. Bene? Sono domande? Su... Vi sembra un quadro abbastanza chiaro? Ci mandi questa cosa che hai letto? La giro ad Ale e poi ve la gira lui. Devo estrarla perché è un testo enorme, magari prendo solo un paio di pezzi e li metto su WhatsApp e poi ve li gira nel gruppo. Chi non è nel gruppo, al Marco, se vuoi poi magari, o se no li chiedi a me direttamente, te li do. Chi altri non c'è nel gruppo WhatsApp? Tu mi pare, vero? Sì? Sì, sì. Dopo magari ti metti d'accordo, ecco sì, scusa, e dopo magari mettete d'accordo e vi passate il materiale, ma quello che è importante, guardate, è soprattutto la parte, insomma, registrata. Va bene. Pratica. Bene. Ci mettiamo nella nostra posizione di meditazione. Non sarà una pratica molto lunga. Ci diamo sempre qualche momento per sistemare il corpo prima di cominciare. Come sempre sapete, più raggiungiamo una morbida immobilità e più la nostra pratica assume una certa efficacia. La schiena è sufficientemente dritta, mai rigida, mento lievemente abbassato, le mani in grembo sulle ginocchia, come vi trovate meglio, occhi morbidamente chiusi. Qualche respiro più profondo. In questa prima parte della pratica vi chiedo semplicemente di stare nel respiro e nel corpo e di trovare il massimo agio, la massima tranquillità. Dimenticate pure tutta la parte delle parole, delle teorie, non hanno alcuna valenza in questo momento. Cerchiamo semplicemente di trovare tranquillità, pace. Serenità. La meditazione è un po' come tornare a casa, una casa confortevole, dove il calore, la serenità, la pace mi accolgono. Posso lasciare andare ogni tensione in questa casa. E quindi per qualche minuto cerchiamo proprio di trovare pace. Vi chiedo ora di prendervi un po' di tempo per voi e di cercare un momento nella vostra vita in cui siete stati bene, avete trovato pace, un momento di luce, avete vissuto in serenità, in armonia. Prendetevi qualche minuto di tempo e cercate un momento nella vostra esistenza così. E quando l'avete trovato, nel momento in cui l'avrete trovato, provate a riviverlo, a sentire le stesse sensazioni, lo stesso stato d'essere, di grande pace, gioia, di luce. Prendetevi qualche minuto. Se avete trovato questo momento di pace, di serenità, vi chiedo proprio di riviverlo, di sentirlo nuovamente. E se riuscite, se è possibile, lasciate che sorga una parola, una frase o anche un gesto che definisca questo momento di pace, di come vi sentite immersi in questa luce, in questa gioia. Se sorge questa parola, questa piccola frase o questo gesto, esprimetelo pure mentalmente, mentre il gesto potete anche farlo, una mano sul cuore, un abbraccio, le mani aperte. Se sorge questo gesto e ve la sentite, esprimetelo. Se invece dovesse sorgere una parola, una piccola frase, rammentatela, ricordatela, ponetela nel cuore. Sarà un amico prezioso per questo percorso. Ed infine torniamo semplicemente ad osservare il respiro. Lasciamo andare le immagini, lasciamo andare l'episodio della vita. Stiamo semplicemente con il ritmo del nostro respiro. Per qualche minuto in pace ed in silenzio, fino a quando non vi richiamerò. Prendiamo contatto col corpo e quando sentiamo quel momento riapriamo gli occhi senza fretta. Accendo una luce. Allora, paio di chiarimenti prima di andarcene. Se non è arrivata nessuna frase, nessun gesto, nessuna parola, non preoccupatevi, c'è tutta la settimana di tempo, perché non è detto che al primo colpo così sorga immediatamente questa parola. Chi di voi invece l'ha, o la frase o il gesto, l'ha vista, l'ha sentita, se la noti o se la rammenti bene, se la ricordi, che non venga dimenticata. Perché è un po' una chiave, è un po' un aiuto che ci servirà nel momento in cui accederemo magari a delle parti sofferenti, a delle parti bambine, a delle parti dimenticate, a delle parti di noi che sono fragili, no? Abbiamo detto, delle parti che un po' costituiscono, abbiamo detto, la parte un po' dimenticata, un po' inconscia. Perché cercheremo di incontrare queste parti di noi, ma dobbiamo incontrarle in un modo che ci permetta anche una via di salvataggio. Come? Una parola che ci aiuti, no? Una parola che ci ricolleghi a una luce, la luce dello stare bene, la luce del momento in cui abbiamo vissuto pace, serenità, apertura. Perché esplorare queste parti un po', diciamo così, tenebrose potrebbe portarci in stati emotivi magari un po' pesanti. Ok? Quindi questa prima pratica è propedeutica per poi continuare il percorso con le altre due fasi. Sono altre due fasi. Ok? Quindi non preoccupatevi se per caso non è sorto nulla. C'è stato il buio totale, non ho visto nessuna parola, non ho detto niente, il gesto men che meno, non è un problema. Tutta questa settimana basta che voi provate a fare questa pratica, senza sforzare. Può sorgere un brano molto semplice, non deve essere una frase arzigogolata, può essere semplicemente luce, pace, può essere serenità, oppure anche può essere un'immagine, no? Avete rivissuto un momento, vi ho chiesto di rivivere un momento di armonia della vostra vita, e potrebbe essere un'immagine, non so, ricordo un percorso fatto qualche anno fa, che l'immagine era del suo cane che saltava pieno di gioia, no? Di questo signore, mi pare. E quindi è stata un'immagine che a lui dava felicità, dava pace, bene, perfetto. Quindi non è una cosa che deve essere per forza che vedo il Buddha che si eleva la terra, ok? Posso chiederti? Sì. Non essere specifico, come dire, a un momento ben delimitato nel tempo, sì. O se è, come dire, una fase della vita. Può essere una fase, può essere una fase. Cioè, basta che sia un momento, non è detto 10 minuti o un anno, non è importante, in quella fase mi sono sentito in armonia, no? In pace con me stesso. Quando uscivo da casa, incontravo gli altri, sorridevo. No, quando andavo a lavorare stavo bene, quando incontravo gli amici stavo bene, quando incontravo i miei amici stavo bene, bravissimo. Però per dirvi questo, non è una questione di proprio deve essere quel momento, però se ricordo un momento proprio preciso, non so, una mia passeggiata vicino a un lago montano, adesso dico sta roba qua. Esatto. No, perché sono due momenti, uno era un periodo dilatato e dopo aver avuto quella parola in realtà poi sono andata a cercarmi, invece era troppo, come dire, su di tono. Sì. E quindi sono invece andata a cercarmi l'immagine. Esatto. Ecco, non discriminiamo, nel senso che non cerchiamo la perfezione. Se quella che è venuta inizialmente ti ha dato una bella parola, di aiuto, eccetera, usiamo quella. Però io direi di sperimentare in questa settimana. Il gesto non è per forza, può essere una mano sul cuore, può essere un abbraccio, può essere una mano giunta, cioè una cosa molto semplice, no? Una cosa che però mi metta in contatto. Abbiamo detto che noi cerchiamo simboli, non cerchiamo spiegazioni. Quando stiamo bene, non dice, io sto bene perché è successo quello, però poi è successo quello, allora è stato bene. No, sto bene. Quando smetto di stare bene? Nel momento in cui dico, che bene che sto. E nel momento in cui dico anche benché sto, torno nella mente razionale e finisce la magia, vero o no? Sì. Allora quella magia è espressa da un'immagine, da una parola, da un simbolo. Cerchiamo quello, perché è quello che mi mette in contatto poi con quella luce. E cosa mi servirà? Nel momento in cui comincerò a lavorare con le parti più buie e sofferenti, se mi sentirò travolgere, mi metterò una mano sul cuore. Oppure dirò la parola pace. Sì, tranquillo. Quello che è venuto. E così riuscirò a contattare gradualmente queste parti. Perché queste parti hanno la capacità di essere calamitarci, di portarci dentro, perché possiamo contattare ad esempio una parte di noi ansiosa, una parte di noi triste, e che cosa ci succede? Che veniamo trascinati dentro alla tristezza, ok? Quindi si tratta di un'esplorazione piano piano, lentamente. Nelle meditazioni della prossima di questa settimana, sì. Ci saranno altri momenti che emergeranno. Certo. Però nel momento in cui aggiunge quella parola, teniamo quella, non occorre che continuiamo a cercare luoghi belli, cerchiamo magari quel luogo e stiamo con la parola. Se è già giunta, passate magari tutta la settimana a fare semplicemente meditazione, e all'interno della meditazione intanto rievocate questa parola, fate questo gesto per sentirvi pieni, ok? Non occorre cercare luoghi, cercare posti. Chi invece non è sorto nulla, continui a sperimentare nella più assoluta serenità, senza, non bisogna, lo sapete, nessuna prestazione, non bisogna essere prestazionali, quindi non preoccupiamoci. Ecco, se 3 giorni non bisogna ancora arrivare a parola, e adesso no, non è importante. Cioè, passetto passetto, le cose sorgono per loro natura, non occorre cercarle. No, anche io volevo chiedere questo, cioè. Se individuiamo una situazione, la parola non è necessario cercare più. Ritorniamo tutta la settimana su quella. Se lo vogliamo, l'importante è che la ricordiamo, perché poi ci servirà quel lavoro per il resto. Ma se vogliamo magari andare avanti con le nostre meditazioni serene, tranquille, lo facciamo, magari intanto la ricordiamo proprio per ricollegarci, perché ora abbiamo creato il ponte. Quell'immagine, quella parola, quella frase, quel gesto è un ponte. Abbiamo parlato di simboli. Quel ponte, nel momento in cui nella meditazione io lo metto in atto, mi collegherà con quello stato emotivo, quello stato d'essere che mi porta serenità. Lo posso usare durante la meditazione, no? È potente. È potente perché non è mediato, devo stare bene perché faccio questo. Semplicemente uso una parola, ok? Che potrebbe essere anche il nome del luogo, Lago Lontano. Apertura, ok? Le parole insieme è una, però mentre meditavo mi veniva anche il desiderio di trovare il gesto legato a queste parole. Lasciamo che sorgano, cioè non induciamo. Sappiamo che mentalmente da qualche parte c'è questa possibilità, ma trattiamola come possibilità, perché non diventi una forzatura, ok? Tutti a posto? Tutti sapete cosa fa? Sì? Dubbio. La sensazione di benessere non deve essere legata a una persona. Può essere legata anche ad una persona, certo. Non precludiamoci nessuna via. Perché tanto. Anche quando questi sono morti. Ecco, io eviterei di scomodare i morti, però insomma, se la sensazione scevra dalla persona morta, cioè non proprio collegata, ma è l'ambiente in cui c'era anche questa persona che mi faceva stare bene, può anche andare. Stiamo più sul termine, sulla parola e sulla frase. Però io eviterei di andare agganciarmi con persone morte, non per nulla, ma lasciamole in pace. Alla settimana prossima. Grazie. Mettetevi d'accordo con Ale, se volete il materiale, o con i nostri registratori umani.